giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Occupazione in crescita in regione, i numeri sono i migliori degli ultimi 20 anni e il tasso di occupazione femminile è tra i più alti del nord-est, ricercati soprattutto muratori e autotrasportatori, e ora si guarda anche agli stranieri. Oggi la giornata mondiale dell'acqua, la nostra rete idrica perde il 40%, mentre i periodi di siccità sono sempre più frequenti e le bollette sempre più care. Intanto, per far fronte all'emergenza, si pensa alla creazione di nuovi invasi per l'agricoltura, un progetto dei consorsi di bonifica della regione che cercherà di contenere i danni. Ieri la giornata contro le mafie, il Friuli Venezia Giulia da Isola Felice a territorio di riciclaggio del denaro sporco sotto i riflettori della magistratura per questa ragione, gli appalti pubblici. Scadono domani i termini per la presentazione delle opposizioni alla richiesta della procura di archiviare il caso Resinovic come un suicidio. Per i consulenti del fratello il corpo di Liliana sarebbe stato congelato. Monfalconese di 48 anni arrestato per maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei suoi genitori, dai quali pretendeva la paghetta settimanale. Oggi una nuova esplosione nella ex ferriera di Trieste dopo quella di settembre. A cadere saranno le torri che servivano a recuperare una parte dell'energia in uscita dall'alto forno. La Dunata Nazionale degli Alpini di Udine ha presentato il piano della logistica che per 4 giorni dovrà gestire in una città da meno di 100.000 abitanti almeno 500.000 di penne nere. Le memorie del colonnello Bowman, governatore di Trieste tra l'estate del 45 e quella del 47, un libro mai tradotto in italiano che ripercorre una parte di storia importante della città. Se ne parla oggi a Trieste. Le 7:20, buongiorno da Alessandra Zigaina e Livia Liberatore. Vediamo la situazione del meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 11 gradi, Gorizia 10,5, Udine 10, Pordenone 8,5, Forni di Sopra e Tolmezzo 6,5, Tarvisio 5,5, Piancavallo e Sappada 3, Monte Lussari 4,5, Monte Zoncolan 4, Grado 12, Lignano 10. Le previsioni dell'ARPA regionale: per oggi avremo cielo in genere poco nuvoloso, al mattino sarà possibile maggiore nuvolosità su pianura e costa e dal pomeriggio invece sui monti. Al mattino possibile qualche nebbia su pianura e costa, venti di brezza, mite di pomeriggio in pianura con massime sui 20 gradi. In Friuli Venezia Giulia dal 2018 sono cresciuti a tassi da record gli occupati e sono calati notevolmente i disoccupati e gli inattivi. Altro dato importante, il tasso di occupazione femminile è il migliore di tutto il nord-est. Ieri a Trieste si è tenuto il 5° Recruiting Day dell'anno, l'appuntamento che mette in contatto le aziende con chi cerca lavoro. Altri 8 sono previsti entro il mese di maggio. Mai tanti occupati come quest'anno, 520.000 le persone che in regione hanno un impiego, di queste oltre 357.000 ha in mano un contratto a tempo indeterminato, l'agognato posto fisso. È il miglior risultato degli ultimi 20 anni, commenta la regione illustrando il nuovo report sul mercato del lavoro. Anna D'Angelo, direttore servizio lavoro e imprese regione. Rispetto al periodo del Covid, dove invece c'era un'attenzione per il tempo determinato per garantire comunque l'occupazione, adesso siamo ritornati a regime con un incentivo soprattutto per il tempo indeterminato. Dai 5.000 ai 13.000 euro l'incentivo che la regione dà a chi stabilizza i lavoratori, il contributo più alto vale per le mamme con i figli. Il tasso d'occupazione femminile è infatti il migliore di tutto il nord-est. Va migliorata a livello nazionale la contribuzione con detassazione e contrattazione di secondo livello in assenza di lavoratori, sì all'ingresso di stranieri. 900 è il numero che la regione ha dato a Roma per il decreto flussi. Nicola Manfren, direttore servizi lavoro. Ma dove prendere questi stranieri? Anche dalla rotta balcanica? Ogni straniero regolarmente soggiornante sul nostro territorio ha accesso ai servizi e pertanto può costituire un bacino da cui attingere. Bisogna avere riguardo forse sempre più alle competenze che hanno. E vanno anche formate. Forse è arrivato anche il momento di un ragionamento in termini proprio di competenze già possedute in arrivo. Manodopera straniera da impiegare in primis in edilizia e autotrasporto, a confermarlo all'ultimo Recruiting Day la Auta Marocchi. Manuela Braiucca. Per il ruolo dell'autista diventa quasi una necessità che siano stranieri, perché nonostante è ben retribuito, dove effettivamente anche i mezzi che hanno a disposizione sono assolutamente dei mezzi tecnologici, confortevoli, eccetera, però il mestiere non ha più appeal. Questo è il quinto Recruiting Day organizzato in meno di 3 mesi, altri 8 da qui a maggio. La richiesta di lavoro è altissima. È difficile trovare lavoro. Perché? Cosa si accorge dai colloqui? Che effettivamente c'è molta affluenza, però probabilmente le condizioni economiche sono al di sotto delle aspettative dei lavoratori. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, bene sempre più prezioso visti i lunghi e sempre più frequenti periodi di siccità, un problema che ora si scontra in modo più marcato con le dispersioni della nostra rete idrica. Perdiamo circa il 40% dell'acqua e la bolletta è sempre più cara. Bolletta dell'acqua sempre più cara in Friuli Venezia Giulia, come nel resto del paese. Nel 2022 in regione una famiglia media ha pagato 448 euro, un po' meno rispetto al dato italiano di 487 euro, ma il 6,6% in più di quanto speso nel 2021. In Friuli Venezia Giulia però la forbice delle differenze è decisamente ampia. Si paga di più a Trieste, 606 euro, e a Gorizia, 473, di meno a Pordenone e a Udine, rispettivamente 370 e 341 euro. La fotografia emerge dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, che ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato in tutti i capoluoghi di provincia per una famiglia tipo composta da 3 persone che consuma 192 metri cubi di acqua all'anno. Ma risparmiare è possibile, ricorda in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Cittadinanza Attiva calcola infatti che con un uso più consapevole e razionale i 192 metri cubi potrebbero ridursi a 150 con un taglio alla spesa di 110 euro annui. Su questo alcuni suggerimenti arrivano da Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Si va dal preferire la doccia al bagno al riutilizzare l'acqua di cottura della pasta o del lavaggio delle verdure per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie o per annaffiare, dall'installazione degli sciacquoni a doppio tasto all'impiego per l'irrigazione di sistemi temporizzati. Ma il principale problema per la gestione delle risorse è la dispersione idrica della rete, che a livello nazionale riguarda il 42% dell'acqua immessa in distribuzione. In Friuli Venezia Giulia a Gorizia si disperde il 44,6% della risorsa idrica, a Pordenone il 14,3%, a Udine il 24,2% e a Trieste il 38,9%. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Intanto, per far fronte al problema siccità, il mondo agricolo guarda alla creazione di nuovi invasi, un progetto dei consorzi di bonifica della regione finalizzato per ora alle colture non intensive. Cercherà di contenere i danni provocati dai cambiamenti climatici. C'è sempre più sole e piove sempre meno. Una situazione che per gli agricoltori significa solo una cosa, siccità. Per correre ai ripari, i consorzi di bonifica hanno messo a punto un piano per costruire nuovi bacini, sfruttando cave e avvallamenti già esistenti. L'obiettivo? Accumulare acqua per i momenti in cui scarseggia. Se si contano i 4 che ci sono già nell'Isontino, saranno in totale una 20, di cui 8 già in programma. Armando Di Nardo, direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Per quanto riguarda quelli che dovrebbero essere realizzati a breve, il finanziamento regionale complessivo per tutti e 3 i consorzi è di 25 milioni. Secondo il piano, i nuovi invasi saranno in funzione nel giro di 2-3 anni e attraverso un sistema di pompaggio e tubature andranno in soccorso a colture caratterizzate da consumi idrici modesti. Stefano Bongiovanni, direttore tecnico Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Secondo me evidenziare che questi invasi sono finalizzati alle colture di pregio, quindi in particolare vigneti, frutteti e zone orticole. Da escludere coltivazioni estensive come il mais, anche perché l'acqua sarà impiegata per le emergenze. Barbara Fico, ufficio tecnico Consorzio Bonifica Pianura Friulana. Sarà un'irrigazione per lo più di soccorso che dovrà essere in grado di andare a colmare quel deficit idrico che è venuto meno a causa dei cambiamenti climatici attualmente in corso. L'acqua accumulata negli invasi evaporerà solo in minima parte, assicurano, anche perché l'estate è il periodo in cui saranno impiegati di più. Non solo si pensa di coprire parte della superficie con pannelli fotovoltaici galleggianti. Il piano prevede anche di aumentare l'irrigazione a goccia della regione, che consuma meno acqua e meno elettricità, ed intervenire con manutenzioni nella vecchia rete per diminuire gli sprechi. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono diversi gli eventi organizzati in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua di oggi. L'Università di Udine, insieme ad Acquedotto Poiana, Legambiente, Centro di Volontariato Internazionale e Consumatori Attivi, fa il punto sulla gestione della risorsa idrica in 5 eventi rivolti a studenti delle scuole, cittadini ed esperti. Si parte oggi nell'auditorium della Biblioteca Universitaria dei Rizzi dalle 9.30 alle 13 con il primo seminario dell'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, risorsa acqua e territorio, attualità e casi studio in Friuli Venezia Giulia, un incontro aperto al pubblico dedicato ai progetti di ricerca sui temi della gestione e trattamento dell'acqua, a seguire dalle 15.30 alle 17.30 in piazza Matteotti spazio alle attività ludico-scientifiche con giochi, attività e video 3D per bambini da 6 agli 11 anni. Aduino e Aurisina, anche la ricorrenza verrà celebrata dalle 18 nella Casa della Pietra di Aurisina con l'evento World Water Day organizzato dal Lions Club di Duino Aurisina con incontri, multivisioni, presentazioni di libri e una mostra fotografica a tema. E ieri sono state diverse le iniziative organizzate anche in regione per la giornata dedicata al ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una regione questa che da tempo non è più un'isola felice. A preoccupare sono i tentativi di infiltrazione, soprattutto negli appalti pubblici, dove le associazioni mafiose cercano di ripulire i propri capitali. Non è un territorio infetto, ma non è neppure immune. Qui la mafia reinveste i suoi capitali, fa riciclaggio e lo fa da tempo. Lo dimostrano i beni confiscati, 22 quelli ancora gestiti dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Patrimoni Sequestrati, 38 quelli già assegnati a comuni e forze dell'ordine. Ora, anche in Friuli Venezia Giulia, arrivano i fondi del PNRR, 2 miliardi, anzi di più calcolando i soldi gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, come quelli per lo sviluppo del porto di Trieste. Sono al sicuro? Fra le misure, il potenziamento della direzione investigativa antimafia. Antonio De Nicolo è procuratore distrettuale antimafia. Questa necessità di controllo non defletterà certamente adesso che sappiamo che arrivano i soldi. E anche la DIA attualmente è ben dimensionata grazie a un'ottima, diciamo, interlocuzione tra me e il direttore centrale di Roma. Stiamo potenziando la DIA che sta raggiungendo direi un buon 30% di uomini in più e quindi i controlli si potranno fare sia in via preventiva che come indagini di polizia giudiziaria con maggiore efficacia. Fra le aree maggiormente esposte a tentativi di infiltrazione, quelle al confine col Veneto, ma ovunque la mafia cerca di ripulire i suoi capitali. Ci sono ricerche di investimenti, perché la mafia ha capito che sparare e uccidere qui non ha senso. Qui ha senso investire, cercare di fare affari truccandoli da affari puliti, e in questo sono bravissimi loro e dobbiamo essere ancora più bravi noi. Il fronte dell'antimafia però passa per la cultura, attraverso il sistema educativo, insomma scuole e famiglie. De Nicolo lo sottolinea, non è solo affare di giudici e poliziotti. Un'immagine che mi è sempre cara è dire servono le sentinelle sul territorio. Ciascuno di noi, compresi lei ed io, dobbiamo essere sentinelle sul territorio. Se insegniamo ai nostri ragazzi ad esserlo, ne faremo cittadini migliori e combatteremo tutti insieme questa lotta che non va appunto delegata soltanto alle forze dell'ordine o alla magistratura. Deve essere sentita come patrimonio ideale di ciascuno di noi. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri la visita in regione del segretario della CISL Sbarra, che ha parlato della vertenza Varsila in vista del tavolo di domani a Roma, affrontati anche i problemi della stabilità e della qualità del lavoro. Occorre costruire una nuova visione di politica industriale che non faccia leva solo sui grandi asset strategici dell'industria italiana. È la visione del segretario generale CISL Luigi Sbarra a margine di un incontro a Trieste. Un forte sostegno alla rete delle piccole e medie imprese che devono essere aiutate, sostenute per l'innovazione sulle nuove tecnologie, per l'internazionalizzazione e per alzare anche la dimensione delle aziende. Fondamentale poi detassare i frutti della contrattazione, soprattutto legandoli ai premi di produttività e agli accordi di welfare, e alzare i fringe benefit per consentire alle imprese di sostenere i propri collaboratori. No alla flat tax, perché, dice Sbarra, in quel caso la redistribuzione avviene dal basso verso l'alto, non è equa, non c'è principio di solidarietà. E per il benessere dei lavoratori e l'aumento della produttività, la richiesta alle regioni è di incoraggiare la contrattazione aziendale. dove c'è una buona contrattazione c'è stabilità e qualità del lavoro, c'è innovazione, c'è produttività, c'è efficienza, c'è benessere lavorativo. Quanto al tavolo sulla vertenza a Varzila in programma giovedì al Ministero delle Imprese, il segretario CISL afferma che il governo deve cominciare a informare le parti sociali sulle manifestazioni di interesse per lo stabilimento triestino. Sui lavoratori transfrontalieri, un fenomeno di peso in una regione di confine come il Friuli Venezia Giulia, c'è ancora da fare, secondo Sbarra, per rafforzare le tutele e non solo. Anche per sostenere bisogni di famiglie, di persone che si caricano anche la fatica di andare oltre per realizzare forme di prospettiva professionale e lavorativa. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. In programma oggi una nuova esplosione nella ex feriera di Trieste dopo quella del 17 settembre scorso in cui erano stati fatti saltare in aria gli ultimi quattro manufatti e un camino ancora in piedi dopo lo smantellamento dell'area a caldo dell'impianto siderurgico. Questa volta l'evento non sarà pubblico, a cadere saranno le torri cilindriche che nell'area ICOP venivano utilizzate per recuperare una parte dell'energia termica residua del gas in uscita dall'alto forno. Per farle saltare saranno utilizzati 150 grammi di esplosivo. Ne resteranno in piedi soltanto due, che secondo un progetto della stessa ICOP potrebbero essere convertite in ambienti di archeologia industriale con funzioni museali. I due cilindri sono collegati da una sorta di passerella che potrebbe essere riadattata ad uso turistico come punto di osservazione. Alla base dovrebbe essere allestita un'area destinata a spiegare il ruolo economico e sociale che ha avuto la feriera a Trieste e in Italia dalla costruzione nel 1896 alla chiusura il 9 aprile del 2020. Il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi sarà oggi in Friuli Venezia Giulia. Diversi gli appuntamenti nel programma della sua giornata. Dopo una visita all'aeroporto incontrerà Monfalcone alcuni rappresentanti dell'autorità portuale del mare Adriatico orientale e della Capitaneria. Nel pomeriggio sarà al centro ingrosso di Pordenone e in serata un evento sempre a Pordenone con le autoscuole. E veniamo agli incontri elettorali in vista delle elezioni del 2-3 aprile. Massimo Morettuzzo, il candidato presidente della regione del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle, si confronterà con gli amministratori del Medio Friuli questa sera a Codroipo alle 20.30 nella sala convegni Banca Ter. In mattinata alle 11 è prevista la sua partecipazione ad un'iniziativa pubblica sul lago di Cavazzo dedicata alla giornata mondiale dell'acqua. Il candidato alla presidenza della regione Alessandro Maran parteciperà invece all'incontro organizzato dal Terzo Polo dal titolo Giovani, lavoro e opportunità in Friuli Venezia Giulia, una prospettiva per rendere maggiormente attrattiva la nostra regione. Alle 20.45 a Udine al Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti. E in vista delle prossime elezioni proseguono le trasmissioni della RAI. Oggi ci sarà la conferenza stampa in cui Giorgia Tripoli, candidata di Insieme Liberi alla presidenza della regione, risponderà alle domande dei giornalisti. La trasmissione è prevista alle 13.15 su Rai 3 con replica radiofonica alle 17.05 su Radio 1. Tripoli sarà anche alle 11 in Largo Barriera a Trieste per presentare il programma ai cittadini. Alle 18 nella sala d'onore della sede del comune di Palmanova si svolgerà il confronto elettorale promosso da CIDA Friuli Venezia Giulia tra i candidati presidente alle elezioni regionali Massimiliano Fedriga per il centrodestra, Massimo Morettuzzo per il centrosinistra, Alessandro Maran del Terzo Polo e Giorgia Tripoli di Insieme Liberi. L'evento è organizzato in collaborazione con UCID, AICA, Associazione La Prora, l'Associazione degli ingegneri regionale e della provincia di Udine. A Udine il candidato sindaco del centro-sinistra Alberto Felice De Toni parteciperà alle 18 nella sala Madrassi di via Gemona ad un incontro dal titolo Il cielo sopra Udine, uno sguardo diverso e prospettive innovative su ambiente urbano, sicurezza stradale e viabilità. In occasione della giornata mondiale dell'acqua, Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico, presidente della Società Meteorologica Italiana, sarà presente in piazza della Borsa a Trieste a un evento organizzato dal Patto per l'Autonomia. Cambiamo argomento. Il caso della morte di Liliana Resinovic. Domani scadranno i termini per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del caso avanzata dalla Procura di Trieste. Questa sera ne parlerà anche la trasmissione Chi l'ha visto. I legali delle parti offese si accingono a depositare all'ufficio del GIP la loro opposizione. Il fratello e la nipote di Resinovic, insieme ai loro legali, presenteranno 5 consulenze a sostegno della loro opposizione. Affermano che l'unica spiegazione al mancato ritrovamento di segni putrefattivi sul corpo sia che questo è stato conservato in un luogo freddo prima del ritrovamento. La squadra mobile di Udine e quella di Treviso hanno arrestato un cittadino dominicano di 40 anni e una sua connazionale di 32 colti in possesso di quasi 2 kg di cocaina e altre quantità minori di stupefacente che smerciavano a Treviso e nel capoluogo friulano. L'operazione è avvenuta in un appartamento di Treviso per accedere al quale gli agenti hanno dovuto sfondare una porta e disarmare l'uomo che aveva opposto resistenza usando un coltello da cucina. Secondo la ricostruzione, la coppia, che proveniva dalla Spagna, si muoveva abitualmente tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Entrambi si trovano ora in carcere in Veneto. Un uomo di 48 anni, originario di Monfalcone e senza fissa dimora, che deve scontare una pena definitiva di 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri mentre si trovava in un locale di Trieste. Era stato condannato a seguito di una denuncia presentata dai suoi genitori. Il 48enne, infatti, pretendeva da loro la paghetta settimanale e al rifiuto aveva iniziato a spaccare piatti e bicchieri. Aveva anche minacciato la madre e il padre in quanto non assecondavano le sue richieste di soldi. Dopo aver trovato il coraggio di denunciarlo, la coppia era riuscita a farlo allontanare da casa. Successivamente era stato condannato dal Tribunale di Trieste. È stato presentato il piano della logistica per la Dunata Nazionale degli Alpini di maggio. Servirà a coordinare gli arrivi e la permanenza degli alpini in sicurezza. A 50 giorni dalla Dunata Nazionale degli Alpini di Udine si inizia a serrare le file dell'organizzazione, che per 4 giorni dovrà coordinare, in una città da meno di 100.000 abitanti, almeno 500.000 di persone, con tutte le esigenze di una manifestazione in grande movimento. Nella sede della sezione ANA di Viale Trieste è stato presentato il delicato piano della logistica, che deve tener conto e armonizzare le varie concorrenze. A redarlo è stata chiamata una società specializzata che opera nel campo della sicurezza, della formazione e produzione di eventi e in portfolio anche la Dunata di Rimini dello scorso anno. Danilo Vienna è il direttore tecnico. È un piano integrato, è un piano che andrà a raccogliere tutte le varie esigenze che la Dunata comporta entrando in un tessuto urbano. Quindi un piano che va a armonizzare quelle che sono le esigenze dei trasporti, le esigenze di organizzazione, le esigenze sì, anche di sicurezza. Quali le principali difficoltà che avete trovato qui a Udine? Quella di trovare delle aree che siano in grado comunque di ospitare tanti flussi di auto e tanti flussi di pullman, 1.500 pullman, quasi 5.000, 6.000 autovetture, e che queste non vadano comunque a inficiare quello che è, diciamo, la vita normale della città di Udine. Più piccola è la sede ospitante, più grandi sono i problemi da coordinare con una molteplicità di terminali pubblici e privati sul territorio. Un piano che dalla bozza odierna dovrà passare al vaglio di quanti sono chiamati a concorrere alla 4 giorni di una manifestazione complessa. Basti pensare ai suoi grandi numeri. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. La sezione regionale della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap organizza oggi un incontro per illustrare alle realtà del terzo settore il primo bando europeo finanziato del programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, che mette a disposizione un fondo per piccoli progetti che abbiano l'obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, l'inclusione e l'innovazione sociale in vista di Nuova Gorizia, Gorizia capitale europea della cultura 2025. L'incontro si terrà alle 15.30 nella sala Dora Bassi di Gorizia. Si parlerà di come sostenere la crescita e lo sviluppo di start-up e PMI innovative attraverso iniziative di sistema e delle opportunità messe in campo a livello regionale e nazionale nell'evento Creare, connettere e valorizzare opportunità a supporto delle start-up d'impresa, organizzato da Area Science Park. Incubatori e parchi scientifici regionali si confronteranno insieme alle start-up da questi supportate su attività, strumenti e best practice adottate per lo sviluppo della startup di impresa nel territorio del Friuli Venezia Giulia alle 9 al Centro Congressi di Area Science Park. Il Circolo Lega Ambiente di Udine organizza un incontro pubblico dal titolo Ambiente e Territorio, presentazione della mappa di alcuni disastri ambientali in Friuli. Lega Ambiente annuncia una cronistoria di oltre 30 anni di un'illegalità diffusa in provincia, delle relative conseguenze presenti sul suo territorio a danno dell'ambiente e della salute pubblica e in particolare nel comune di Pozzuolo del Friuli contro l'ipotesi di una nuova discarica. L'appuntamento è alle 20 nella ex scuola elementare di Carpenedo a Pozzuolo. È affidato allo psichiatra scrittore Paolo Crepet l'evento inaugurale di Monfalcone Geografie Festival in Piazza della Repubblica alle 17.30. Crepet racconterà al pubblico il suo nuovo lavoro, lezioni di sogni, appuntamenti in programma già dalla mattina per il Festival Geografie. Alle 10 in Piazza della Repubblica, Spazio Nord, il primo incontro con l'autore, anzi l'autrice Benedetta Bonfiglioli, che presenta Viaggio nella vita senza una buona ragione, una storia che parla di bullismo ma anche di amicizia. Alle 10.30 in Piazza della Repubblica, Spazio Sud, si prosegue con Laura Ogna e Ragazze in capo al mondo, storie di esploratrici e di viaggi. In serata alle 20.45 al Teatro Comunale di Monfalcone, riflettori su un classico di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, Il Dio Bambino. Il festival proseguirà poi fino a domenica. Nuovo appuntamento in regione per Maylis de Kerangal, protagonista del Festival Dedica 2023 a Pordenone. Sarà presentato nella rassegna in prima nazionale il nuovo libro dell'autrice Fuga ad Est, storia di due passeggeri, un uomo e una donna, tra molti altri, sulla linea ferroviaria transsiberiana da Mosca a Vladivostok, che fuggono da qualcosa diventato per loro insopportabile. L'appuntamento è in programma alle 20.45 nel convento di San Francesco. Al Circolo della Stampa di Trieste alle 17.30 si terrà un incontro sul libro Zone di tensione, che raccoglie le memorie del colonnello Alfred Connor Bowman, governatore di Trieste tra l'estate del 45 e quella del 47. Una figura importante quella di Bowman, come ci ha spiegato il presidente del Circolo della Stampa Luciano Santin. È un colonnello, ma viene dalla avvocatura civile, è entrato in servizio dopo Pearl Harbor e regge Trieste in momenti difficili, quelli in cui si deve decidere la sorte della città che diventerà, verrà istituito il territorio libero mai realizzato poi. Arrivando a Trieste, soggiogato dalla bellezza della città, rubando Shakespeare una citazione, dice è fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni e pensa che i triestini per il solo fatto di vivere in un posto così bello devono essere felici e in pace con il mondo. Scopre che non è così e che la bipartizione fascisti e antifascisti buona per il resto d'Italia qui funziona meno perché è complicata dalla presenza del confine. Bowman ha uno sguardo sgombro da pregiudizi, in certi momenti un po' ingenuo, si trova bene con gli sloveni come con gli italiani, il che gli vale da parte di questi ultimi l'accusa di filoslavo e addirittura di comunista. I giovanissimi carpinteri e Faraguna ne fanno un bersaglio costante di feroci satire, ma lui ne parla con simpatia. Meno simpatia ha per Maria Pasquinelli, che voleva assassinarlo, ma poi si accontenta di De Winton perché lui è a Roma. Il libro parla di molte cose, più di 250 pagine, parla della Bora, parla dei Cerini, la famosa polizia civile, delle molteplici amanti attribuite al colonnello, racconta di Stanislaus Joyce, il fratello di James, che era interprete di Bowman, interpretava un po' troppo, era artista anche lui, diceva, racconta dei deportati, delle foibe, dell'esodo istriano senza enfasi perché sono problemi, dice, che attengono i governi e comunque sono colpi di coda della guerra. Il discorso d'addio, una dichiarazione d'amore per Trieste, dove tornerà poi più volte, e anche una deplorazione per il fatto che l'Europa e il mondo non abbiano saputo cogliere l'occasione di fare un laboratorio internazionale quale Trieste sarebbe potuta essere come territorio libero. Ancora un appuntamento, incontro con il giornalista Fausto Biloslavo per discutere dell'anno di guerra in Ucraina appena trascorso e delle sue conseguenze alle 18.30 nella sala conferenze della Lega Nazionale a Trieste. Ora lo sport, pallanuoto dentro fuori. Oggi è il giorno dell'attesissima semifinale di ritorno di Eurocup tra RN Savona e Pallanuoto Trieste. Si gioca nella piscina Carlo Zanelli con inizio alle 19 e diretta streaming sul sito della LEN. Si parte dal 9-9 scaturito nella gara di andata alla Bruno Bianchi 3 settimane fa. E nella nona e ultima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile, la Pallanuoto Trieste affronterà in trasferta la Rari Nantes Bologna. Si gioca nella piscina Sterlino con inizio alle 15 e diretta streaming sulla pagina Facebook della società emiliana. Alle 7.48 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo dal piccolo di Trieste. La grande fotonotizia sulla prima pagina riguarda il caso Varzila, il titolo: gli austriaci in corsa per Varzila. Si legge poi nelle pagine interne del gruppo Christoph. Sotto riapre il Palachiarbola, da lunedì il via alle attività, seppure solo nel pomeriggio. Pubblico vietato invece alla palestra Cobolli. Accanto il progetto di un parcheggio a pagamento da 200 posti nel piazzale di TCC in Porto Vecchio. E poi il caso Resinovic, i consulenti di parte, il corpo di Liliana è stato congelato, no all'archiviazione. Sotto, per la pagina dedicata alle storie, il colloquio a 62 anni per trovare lavoro e i sogni di Crepè al Festival Geografie. Dalle pagine interne troviamo l'aggiornamento di una notizia che aveva destato una certa impressione, che forse ricorderete: un piatto a base di pesce della mensa dell'Università di Trieste con dei lunghi presunti vermi immortalato da una studentessa. Bene, il piccolo ci dice che non erano vermi, sono state fatte le analisi, ma tentacoli del pesce. Dal piccolo di Gorizia, il gelato bisiacco ai mondiali. Sotto rifiutano l'incarico i 6 rinforzi per il tribunale. Si tratta di funzionari amministrativi attesi al tribunale di Gorizia. Accanto Ziberna rassicura: non siamo indietro con Gorizia 2025, e Marina Giulia rifà tutta la spiaggia con 630.000 euro. Vediamo il Messaggero Veneto, l'apertura è sul super bonus dopo lo stop del governo, le nuove proroghe, il nodo crediti è il titolo di prima pagina, niente intesa in maggioranza su 19 miliardi di risorse. I professionisti friulani chiedono che la misura diventi permanente. Nella fotonotizia ecco tutto quello che c'è da sapere sulla dunata degli alpini. Poi nella colonna destra della prima pagina la cronaca locale, morta la prof De Vecchi, storica docente alla media Ellero, e poi il caso della giocatrice di volley statunitense della CDA Thalma Sons, che è ancora senza tessera sanitaria. L'apertura delle pagine locali è sul comune che aumenta il contributo al palio studentesco 20.000 euro. Nelle pagine della cultura, viaggio nei depositi dei civici musei. Vediamo l'edizione di Pordenone, raccolta differenziata, in aprile le nuove tariffe, il titolo di apertura. Il sistema entra nella seconda fase, autorizzato un aumento dell'1,6% per l'inflazione. Richiamata in prima pagina la cronaca, calcinacci in aula, verifiche nella scuola di Sacile. E poi è ancora in vendita il locale di Budoia dove cenò Bill Clinton. Infine l'incidente di ieri a Casarza, un ventenne investito sulle strisce, sbalzato per 3 metri. Nella foto in prima pagina gli studenti delle scuole di Pordenone che, partecipando a un progetto sulla legalità, dicono: in città mancano luoghi di aggregazione. L'apertura delle due edizioni locali del Gazzettino è uguale e affronta un problema gravissimo, quello della crisi demografica. In un anno spariti 2.000 friulani, nel 2022 è come se fosse scomparso un intero comune. Il numero dei decessi doppia quello delle nuove nascite, in 14 piccoli comuni non c'è stato nemmeno un parto. Vediamo l'edizione di Pordenone per la cronaca, la fotonotizia ci mostra il luogo dell'investimento di ieri a Casarza. Ventenne travolto sulle strisce mentre attraversa la statale 14. L'investitore, accecato dal sole, non l'ha visto. Accanto, figlia violentata, il papà si fa giustizia e finisce a processo. L'uomo avrebbe trattenuto in casa propria, picchiato e minacciato un giovane che aveva ceduto uno spinello alla figlia tredicenne. e poi aveva abusato di lei. Ieri è stato rinviato a giudizio. Ancora da Pordenone, primi lavori in via Molinari, il grattacielo prende forma. Sotto, da Zoppola, l'omicidio del bisnonno diventa un docufilm. È la storia della scomparsa di Antonio Colussi, emigrato in Argentina 130 anni fa, ricostruita dalla nipote docente di un'università di Toronto, in Canada. Per lo sport, calcio, i neroverdi sperano nel regalo di Tedino, ciclismo, il team Friuli non scende dal podio, basket, la Orm Pordenone scalda i motori per la sfida contro Montebelluna, dal Gazzettino del Friuli. Droga dalla Spagna, l'intermediario arrestato a Treviso, accusato di aver rifornito di cocaina la provincia veneta e quella di Udine. Maxi scontro in autostrada, sulla A4, due persone ferite. E poi ancora strade Colabrodo in Friuli, cantieri per oltre 6 milioni, adunata, parliamo della dunata degli alpini, autisti in subbuglio, parliamo al tavolo. Caso ascensori, PD, Movimento 5 Stelle, Marchiol contro Fontanini. Poi una notizia che riguarda una scossa di terremoto con epicentro a 2 chilometri da Gemona. E per lo sport, l'Udinese conta i passi per l'Europa, l'Old Wild West testa il polso contro Mestre. Prima di chiudere ancora una notizia, l'associazione Metre Italiani Ristoratori ed Alberghi organizza dalle 8.30 alle 13.30 al Grand Hotel Astoria di Grado la 7ª edizione della manifestazione Le Donne nell'Arte del Flambé, una gara di cucina alla fiamma con relativo abbinamento del vino. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica In Friulano Vue o Fevelindi. Alle 11.20 andrà in onda A Volo Radente. I programmi regionali torneranno poi alle 13.29. Il giornale radio finisce qui. Grazie a Bruno Montevecchi per aver curato la parte tecnica e a Laura Sarasini per aver collaborato in redazione. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.